Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera cari ascoltatori, continuiamo questa sera la conversazione intrapresa ieri con Luigi Mazzocchi, direttore del Dipartimento Tecnologie di Generazione di RSE, Ricerca Sistema Energetico. Buonasera Luigi, bentornato. Buonasera, grazie. Allora, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che l'epidemia in corso ci ha messo nelle condizioni di fare un esperimento che, come dicevamo ieri, nessuno avrebbe potuto fare, cioè quello di sperimentare come sarà il sistema elettrico tra una decina di anni. Infatti la riduzione dei consumi energetici ha ricreato condizioni di struttura della produzione energetica simili a quelle che avremo nel 2030, quindi con una quota maggiore di rinnovabili e una quota inferiore di fossili. E c'è in particolare una giornata che Ricerca Sistema Elettrico ha analizzato in quanto particolarmente significativa, ed è la giornata, una giornata di festa, quella del 5 di aprile. E allora Luigi, quali sono stati i numeri molto brevemente del 5 aprile e che cosa questa giornata particolare ci ha insegnato sul sistema elettrico, la sua stabilità e quant'altro? Abbiamo scelto il 5 aprile, prima domenica di aprile, perché abbiamo potuto confrontarla con la domenica corrispondente l'anno precedente e abbiamo visto due situazioni nettamente diverse. Guardiamo solamente la produzione fotovoltaico più eolico, che è la parte più fortemente variabile. Sono state intorno al 14% nella prima domenica del 2019, questo corrisponde grosso modo alla media nazionale durante l'anno, mentre nella giornata del 5 aprile del 2020 abbiamo un 30% abbondante. Consideriamo che il piano energia clima impone l'obiettivo al 2030 di arrivare a un 37%, quindi non siamo lontani. Questa giornata, diciamo, ha prodotto una situazione in cui la produzione da fossili è stata più bassa del normale, specialmente da carbone ma anche da gas, mentre c'è stato un forte apporto da tutte le rinnovabili, sole, vento e idroelettrico. E il punto è come funziona questo sistema così fortemente alimentato da fonti rinnovabili. Evidentemente ha funzionato bene, non ci sono state notizie di problemi o di servizi. Certo. E questo vuol dire che le fonti utilizzate hanno comunque assicurato la flessibilità necessaria per seguire l'andamento del carico. Carico, ovvero la domanda di energia. Esatto. È necessario modulare, far variare la produzione in funzione della domanda, e questo può comportare variazioni durante la giornata anche molto forti. Il gas ha contribuito a questo. Nonostante la forte produzione da rinnovabili, il gas ha continuato ad avere un ruolo importante, anche in quella giornata ha prodotto circa un terzo dell'energia richiesta e ha mostrato una variabilità da 1 a 2, quindi è stato sui 5.000 megawatt in alcune ore di minor domanda e maggior produzione solare, è salito fino a 10 nelle ore serali. L'idroelettrico anche ha contribuito, l'idroelettrico era meno in quantità assoluta, però la sua variazione è stata da 2.000 a 7.000 megawatt, quindi anche lui ha fatto una grossa variazioni molto importanti, perché l'acqua si può accumulare. E questa è una cosa importante, sì. No? Addirittura si può ripompare verso la montagna, verso l'alto, si parla di ripompaggi non a caso, e riprodurre poi energia quando la si fa ridiscendere dai bacini in cui è stata accumulata. E anche qui c'è stato un ruolo, infatti, appunto, mi stai dicendo, molto importante di queste infrastrutture di ripompaggio. L'idroelettrico in sé, quello che produce semplicemente, è stato in grado di fare una variazione di un fattore circa 4 tra le ore di minor domanda e quella di massima domanda. Poi c'è il pompaggio, che è una forma di accumulo e che è stata utilizzata ampiamente, anche se non così ampiamente quanto uno poteva pensare, perché abbiamo 8.000 megawatt di pompaggi e il massimo assorbimento nella fase in cui c'era abbondanza di energia è stato di circa 4.000. Anche lo scambio con l'estero, a cui l'Italia è collegata attraverso diverse linee sia transalpine che sottomarine, si è mostrato una risorsa importante per il bilanciamento fra la domanda di energia e la produzione. Un'altra forma di flessibilità, però è la meno efficiente, è quella di smettere di produrre col sole e con il vento, cioè se ci fosse eccesso di domanda e di offerta. Questo però vuol dire sprecare una fonte gratuita e non più recuperabile. Poteva capitare in questa giornata, sembra che non sia capitato. Ecco, tutto questo, diciamo, dimostra una buona stabilità del sistema anche in condizioni che possono essere valutate più critiche, come potrebbero essere in futuro, però c'è un costo. Il sistema, per essere continuamente bilanciato fra la produzione e il consumo, ha bisogno di mezzi di flessibilità, che vuol dire creare poi delle riserve, cioè impianti che sono pronti a modificare il loro assetto. E questo comporta dei costi che finiscono poi nella bolletta degli italiani. E questo effetto è stato amplificato in questo tipo di giornata. Se confrontiamo i costi legati al dispacciamento, quindi all'uso di queste risorse flessibili, nella giornata del 5 aprile confrontata con la giornata equivalente del 2019, sono stati da 2 a 4 volte superiori. Quindi questo comporta, diciamo, qualche onere per l'utente, che si potrebbe cercare di ridurre nel futuro con opportune scelte. Anche perché questo 5 aprile, se ci porta, per così dire, nel 2030, 2030 è solo metà del cammino che dobbiamo fare. Come si fa? Quali sono i vostri suggerimenti? Il 2030 sicuramente è una tappa intermedia, quando pensiamo ai decenni successivi, l'obiettivo è proprio quello di eliminare le emissioni di anidride carbonica, quindi le fonti fossili. Già nel 2030 dovremmo poter contare su maggiori risorse di flessibilità di quelle che abbiamo oggi. Si pensa allo sviluppo dell'accumulo sia di tipo idroelettrico sia di tipo batterie, e questo evidentemente garantisce una forma di flessibilità che può sostituire in parte il funzionamento delle centrali a gas. Poi ci sono anche fonti rinnovabili che sono adatte per loro natura a svolgere una funzione simile a quella del gas. Tipicamente le energie derivanti dalle biomasse, biogas e biomassa legnosa, come pure il geotermico in qualche misura. Quindi sono fonti che sono regolabili e oggi vengono impiegate, diciamo, a carico costante, produzione costante, per motivi legati alle regole, al fatto che sono incentivate per la produzione e non sono invece spinte a fare servizi. Quindi questa è un'altra risorsa, sia pure limitata, che potrebbe essere maggiormente impiegata. Poi c'è la partecipazione anche della domanda di energia, quindi il consumatore può adattare entro certi limiti il suo consumo al fatto che ci sia abbondanza o meno di energia. Grazie Luigi Mazzocchi. Grazie. È tutto, a domani.